Antioco, figlio del re Demetrio, inviò lettere dalle isole del mare a Simone, sommo sacerdote ed etnarca dei Giudei, e a tutto il popolo, il cui contenuto era del seguente tenore. Il re Antiochio a Simone, sommo sacerdote ed etnarca, e al popolo dei Giudei, salute. Poiché alcuni uomini pestiferi si sono impadroniti del regno dei nostri padri, voglio rivendicare i miei diritti sul regno, per ricostruirlo come era prima. Ho reclutato un esercito ingente di mercenari e allestito navi da guerra. È mia volontà sbarcare nella regione per punire coloro che hanno rovinato il nostro paese e desolato molte città del mio regno. Ora ti confermo tutte le esenzioni che ti hanno concesse i re miei predecessori e tutti gli altri esoneri dai doni. Ti concedo di batter moneta propria con corso legale al tuo paese. Gerusalemme e il suo santuario siano liberi. Tutti gli armamenti che hai preparato e le fortezze che hai costruito e occupi restino in tuo possesso. Quanto devi al re e ai debiti che potrai avere verso il re in avvenire, da ora e sempre ti sono rimessi. Quando poi avremo preso possesso del nostro regno, onoreremo te, il tuo popolo e il tempio con grandi onori, così da render chiara la vostra gloria in tutta la terra. Nell'anno 174, Antioco entrò nella terra dei suoi padri e si schierarono con lui tutte le milizie, così che pochi rimasero con Trifone. Antioco si diede ad inseguirlo e quegli dovette fugire e venne fino a Dora, situata sul mare, perché vedeva che i mali si addensavano su di lui mentre le truppe lo abbandonavano. Antioco pose il campo contro Dora, avendo con sé 120.000 armati e 80.000 cavalli. Egli circondò la città mentre le navi attaccarono dal mare. Fece così pressione contro la città della terra e dal mare, non lasciando più entrare né uscire nessuno. Intanto arrivarono da Roma Numanio e i suoi compagni, portando lettere per i re dei vari paesi. Esse dicevano: Lucio, console dei Romani, al re Tolomeo, saluto. Gli anziani dei Giudei sono giunti a noi come amici nostri e alleati, a rinnovare l'antica amicizia e alleanza, indotti da Simone, sommo sacerdote, e dal popolo dei Giudei. Essi hanno portato uno scudo d'oro di 1.000 mine. È piaciuto a noi di scrivere ai re dei vari paesi perché non procurino loro del male, né facciano guerra alle loro città o alla loro regione, né prestino alleanza a chi entri in guerra con loro. Ci è parso bene accettare da essi lo scudo. Se pertanto uomini pestiferi sono fuggiti dalla loro regione presso di voi, consegnateli a Simone perché ne faccia giustizia secondo la loro legge. Uguali espressioni scrissero al re Demetrio ed a Talo, Ariarate e Arsace, e a tutti i paesi, a Samsame, agli Spartani, ad Elo, a Mindo, a Sicione, alla Caria, a Samo, alla Panfilia, alla Lidia, ad Alicarnasso, a Rodi, a Faselide, a Coo, a Side, ad Arado, a Gortina, a Cinidno, a Cipro e a Cirene. Copie di queste lettere avevano trascritto per Simone, sommo sacerdote. Antioco dunque teneva il campo contro Dora da 2 giorni, lanciando continuamente contro di essa le schiere e costruendo macchine. Aveva precluso a Trifone ogni possibilità di uscire ed entrare. Simone gli inviò 2.000 uomini scelti per combattere al suo fianco, e insieme argento, oro e molti equipaggiamenti. Ma Antioco non volle accettare niente, anzi ritirò quanto aveva prima concesso a Simone e si inimicò con lui. Poi gli inviò Atenobio, uno dei suoi amici, a trattare con lui in questi termini: voi occupate Giaffa, Gezer e Lacra in Gerusalemme, tutte città del mio regno. avete devastato il loro territorio e avete causato rovina grande nel paese, e vi siete impadroniti di molte località nel mio regno. Ora consegnate le città che avete occupate, insieme con i tributi delle località di cui vi siete impadroniti fuori del territorio della Giudea. Oppure date in sostituzione 500 talenti d'argento e in compenso dei danni arrecati e dei tributi delle città, altri 500 talenti, altrimenti verremo e vi muoveremo. Atenobio, l'amico del re, si recò a Gerusalemme e vide la gloria di Simone, il vasellame con lavori in oro e argento, e il suo grande fasto, e ne rimase meravigliato. Poi gli riferì le parole del re. Simone gli rispose: «Non abbiamo conto terra straniera, né ci siamo impossessati di beni altrui, ma dell'eredità dei nostri padri, che fu posseduta dai nostri nemici senza alcun diritto nel tempo passato. Noi, avendone avuta l'opportunità, abbiamo recuperato l'eredità dei nostri padri. Quando a Giaffa e a Gezer, che tu regni, esse causarono rovina grande nel nostro paese, per esse daremo 100 talenti». Atenobio non gli rispose nulla, ma portò indispettito presso il re, al quale riferì quelle parole e la gloria di Simone e quanto aveva visto. Il re si adirò furiosamente. Trifone, intanto salito sulla nave, fuggì a Ortosia. Il re allora nominò Cedebeo primo stratega della zona litoranea e mise al suo comando forze di fanteria e cavalleria. Poi gli ordinò di accamparsi in vista della Giudea e gli ordinò di ricostruire Cedro, rinforzando le porte ed iniziare la guerra contro il popolo. Il re intanto continuò la caccia a Trifone. Cedebeo si recò a Iammia e cominciò a molestare il popolo, a invadere la Giudea, a far prigionieri fra il popolo e a metterli a morte. Egli ricostruì Cedron e vi dispose la cavalleria e la truppa perché potessero uscire e battere le strade della Giudea come gli aveva ordinato il re.